Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:06, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Vogliamo oggi tornare a parlare, come avevo detto un paio di giorni fa in chiusura, della guerra nella striscia di Gaza. Vedete, c'è una guerra di fatto con le oltre 700 vittime palestinesi. Le ultime notizie ne do così un po' sporadiche. L'ONU, lo sapete, nella notte ha votato la risoluzione che chiede la sospensione del conflitto, una tregua per far entrare anche gli aiuti umanitari. Ci sono i nuovi razzi che purtroppo sono piovuti ieri dal fronte sud del Libano su Israele, e speriamo che non si apra un altro fronte di possibile guerra. C'è l'ONU che ha sospeso gli aiuti umanitari in questo momento nella striscia di Gaza, perché ieri sono stati colpiti due convogli e dunque l'agenzia si è ritirata temporaneamente dagli aiuti. Ci sono poi delle, non so se dire guerre, ma delle dichiarazioni che sicuramente hanno animato il dibattito. Tanto per citarne una, quella del cardinale Renato Martino, ex ambasciatore vaticano all'ONU, che ha definito in un'intervista la striscia di Gaza somigliante sempre più a un grande campo di concentramento. Israele, che ha risposto molto duramente, a dire usa il linguaggio di Hamas. Ci sono ancora gli strascichi polemici della manifestazione per la pace che si è tenuta nei giorni scorsi in diverse città e che è culminata e finita, tra l'altro, a Milano con quella grande preghiera musulmana sul sagrato di fronte al Duomo, così come a Bologna di fronte alla cattedrale di San Petronio. Ci sono dichiarazioni, interviste molto interessanti oggi sui giornali, con anche gli organizzatori che dicono è stata una decisione inopportuna, andremo dal cardinale Tettamanzi di Milano a chiedere scusa. C'è qualcuno che a Roma, e viva Dio, una sigla sindacale che è stata subito messa a tacere, ha chiesto il boicottaggio di prodotti israeliani o dei negozi gestiti da ebrei. Già questa è una differenza importante e ne vorremmo parlare. Vogliamo parlare insomma di tutto questo con tre persone che voglio presentare, a cominciare da padre Samir Khalil Samir. Buongiorno e benvenuto, anzi ben ritrovato padre Samir. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Padre Samir, lo presento brevemente, ma gli amici di Radio 24 forse lo ricordano, un gesuita, è nato in Egitto, vive gran parte della sua vita in Libano, anche se in Italia in questi giorni, è un islamologo molto influente e molto ascoltato in Vaticano. Saluto da Israele Sergio Minerbi, buongiorno Minerbi. Buongiorno. Minerbi è stato anche ambasciatore di Israele, è studioso delle relazioni tra Israele e Santa Sede, tema di cui si occupa da diversi anni. E voglio salutare Sergio Yaka Pallavicini, imam, buongiorno, vicepresidente del Coreis, la comunità religiosa islamica. Buongiorno Pallavicini. Buongiorno. Alle 9:10, 800 24 00 24, per intervenire in diretta. Padre Samir, io inizierei dalla dichiarazione del cardinal Martino. Ieri ci sono state delle altre importanti dichiarazioni di Papa Benedetto XVI, di cui sicuramente parleremo. Però quell'immagine, la striscia di Gaza assomiglia sempre più a un campo di concentramento. Lei, padre Samir, come giudica questa dichiarazione? Sì, il testo che ho davanti agli occhi dice che ciò che succede manifesta un senso meno acuto della dignità dell'uomo. Nessuno vede l'interesse dell'altro, ma solamente il proprio. Ma le conseguenze dell'egoismo sono l'odio per l'altro, la povertà e l'ingiustizia. A pagare sono sempre le popolazioni inermi. Guardiamo le condizioni di Gaza. Assomiglia sempre più ad un grande campo di concentramento. L'alternativa al dialogo è solamente il ricorso alla forza e alla violenza, ma la violenza non risolve i problemi e la storia è piena di conferma e continua, eccetera. Sì. La frase che ha suscitato la reazione è l'allusione al campo di concentramento, ma è ovvio nel contesto che io l'ho capito comunque così, che vuol dire sono presi in una gabbia. E questo tutti l'hanno descritto, cioè che una popolazione densissima in un piccolo luogo e non hanno uscita. L'Egitto blocca, ognuno ha le sue ragioni, Israele lo stesso, e non hanno nessuno sblocco neppure verso il mare, cioè sono presi in gabbia e bombardati. Adesso tutto è giustificabile, si può riflettere su questo, ma ciò che dice è che nessuno tiene conto dell'altro, ognuno pensa al proprio interesse, che secondo me d'altronde non è l'interesse né di Israele né di Gaza, ma di questo si potrà parlare. Le sembra comunque un'allusione, lei l'ha definita opportuna, oppure è un'immagine? Cioè, se si capisce nella psicologia della Shoah, ovviamente non è accettabile, e non è questo il significato certamente di Martino. Ma se capisco l'immagine nel contesto che sono presi in gabbia, si poteva usare un'altra espressione, ma è quello il significato, allora mi sembra vero, e dobbiamo dire facciamo qualcosa per fermare questa prigione dove si trovano combattenti, terroristi, e si trovano una massa enorme, più di 100.000 di innocenti. Oggi sulla stampa, padre Samir, c'è un articolo di Giacomo Galeazzi, vaticanista, dal titolo emblematico: nella Chiesa cresce la fronda pro-Palestina, cioè secondo Giacomo Galeazzi aumenterebbero gli esponenti della Chiesa, magari facendo riferimento con predilezione a movimenti pacifisti, beati costruttori di pace, Pax Christi, parroci di frontiera, cattolici no global, cita i terzomondisti di Nigrizia, al centro nuovo modello di sviluppo, insomma, che stanno sposando sempre di più la causa palestinese contro la causa israeliana. A me mi sembra che tutti siamo pacifisti nel senso etimologico, o vogliamo esserlo, spero. Quando vedo che in una determinata situazione un gruppo è più vittima, tutti sono vittime, allora prendo la difesa in quel momento di quel gruppo. Domani può essere proprio il contrario. Dunque, in questo momento lei ha citato più di 700 morti, e un terzo almeno sono bambini e ragazzini. D'altra parte io non ho sentito dire, cioè una vita è già enorme, ma non ho sentito dire che supera i 10 o che arriva a 10. Allora dico, in questa situazione chi è da difendere? È la popolazione palestinese. Questo non vuol dire che sono pro-palestinese o contro, perché una delle cause di questa sofferenza dei palestinesi sono i palestinesi stessi. Questo si potrà chiarire, ma sono nel momento l'aggressione israeliana forte. Quindi in questo momento sono più vittime, in questo momento più vittime i palestinesi, secondo lei? Certo. Vorrei andare a Gerusalemme. Sergio Minerbi, come detto, oltre alle dichiarazioni di Martino, sul quale le chiedo un commento, ma anche quello che Benedetto XVI ha detto ieri, il Papa ha detto servono nuovi leader in Israele, nuovi leader sul fronte palestinese per impegnarsi nella ricerca della pace, una pace che purtroppo in quell'area è davvero ancora distante. Che ne pensa? Mi permetto prima di tutto di correggere leggermente il tiro. Il Papa non ha detto né in Israele né tra i palestinesi, ha detto è molto importante che in occasione delle scadenze elettorali cruciali che interesseranno molti abitanti della regione nei prossimi mesi emergano dirigenti capaci di far avanzare con determinazione questo processo. Fino a qui non vedo nessun problema. Il problema è un altro. Prima di tutto, padre Samir Khalil Samir, che è un grande esperto dell'Islam, mi sembra oggi in contrasto con se stesso. Egli ha scritto numerosissimi articoli, non posso citarli tutti, ma dirò semplicemente questo: lui ha detto che l'islamismo è la peggiore lettura possibile dell'Islam, ha detto che l'islamismo è una minaccia alla sopravvivenza di quella religione che potrebbe rappresentare tutto, che pretende di rappresentare tutto il mondo. Ha detto che il legame, c'è un legame fra islamismo e terrorismo. A me basta, ed è sufficiente, la diagnosi di padre Samir Khalil Samir sull'islamismo è una diagnosi perfetta ed è una diagnosi che in parte è stata recepita dal Papa nel suo famoso discorso nella lezione magistrale di Regensburg. Quindi non si può fare la storia partendo da questa mattina. La storia deve avere un minimo di profondità. Per 8 anni Israele, la popolazione civile israeliana, ha subito i lanci di razzi dalla striscia di Gaza. Non importa quante vittime fanno, quello che è importante è che la popolazione civile non può più vivere la propria vita normale. Io vorrei sapere se il padre Samir sarebbe disposto a vivere in queste condizioni. No. Quindi tutto il resto poi ne deriva. Ad un certo momento, dopo aver avvisato in precedenza, dopo essere stati al Cairo per spiegare la situazione anche al presidente Mubarak, che l'ha capita benissimo, Israele ha deciso che bisognava mettere fine a questa situazione che mette in pericolo donne e bambini israeliani senza nessuna pietà. E su questo padre Samir vuole una replica, poi voglio andare ovviamente anche da Yahya Pallavicini, che credo sia in partenza per la regione, almeno nella prossima settimana. Però padre Samir, insomma, Minerbi è stato molto chiaro nelle sue... D'accordo con sua eccellenza l'ambasciatore, prima ciò che ho detto lo mantengo ovviamente, il terrorismo e il fondamentalismo islamico che ne è la fonte è da combattere con i mezzi giusti, che bisogna, come l'ha detto molto bene, non giudicare da oggi ma tornare indietro, e per questo, tornando indietro, dico, c'è anche una correlazione tra i razzi che condanno comunque e il fatto dell'occupazione. Non si tratta di Gaza ma della Palestina ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite. Cioè la fonte del problema è, per i palestinesi dicono, la creazione dello Stato di Israele, ma dico, la creazione è un atto legittimato dalle Nazioni Unite e dunque dobbiamo riconoscerlo, ma dobbiamo riconoscere Israele nelle frontiere stabilite dagli Stati Uniti. Quelle del 67, insomma, e non quelle del 48. Che sono quelle del... Quelle pre-67, non gli insediamenti della Cisgiordania sostanzialmente, questo è il... Che oggi rimane neppure la metà di ciò che è ufficialmente la Palestina è morsellata. Perciò, diceva il Papa, tutto ciò che si chiede è una tregua e un processo di pace che sedono al stesso tavolo per discutere, per vedere, per dire come arrivare alla pace giusta, basata sulle decisioni delle Nazioni Unite, perché per il momento qualunque sia l'opinione che uno ha sull'ONU è l'unica autorità internazionale riconosciuta. Allora, prima di tornare su questo punto sul quale Minerbi poi ci dirà qualcosa, vorrei andare da Sergio Yahya Pallavicini, come detto vicepresidente del Coreis, la comunità religiosa islamica. Poi parleremo ovviamente più avanti nella seconda parte, Pallavicini, anche di quello che è successo a Milano, a Bologna, delle polemiche ancora. Io ripeto, c'è un'interessante intervista al senatore Marcello Pera che vorrò citare, così come c'è un'interessante intervista concessa a Gad Lerner da Abdelhamid Shah, che è l'imam di Viale Jenner. Però Pallavicini, veniamo a Gaza, perché queste sono, se si vuole, schermaglie importanti e temi importanti in Italia. A Gaza invece c'è una situazione che il Cardinal Martino ha definito così, in questo contesto, che padre Samir ci ha letto in questo modo e che lei legge come? Ma io leggo come il Samir Khalil prima maniera, cioè distinguendo chiaramente tra la perversa degenerazione dell'islamismo, che non ha nulla a che fare con la civiltà e la tradizione religiosa dell'Islam, e appunto quella che è l'espressione autentica di una civiltà e di una spiritualità che condivide con ebraismo e con cristianesimo valori universali, comuni e storicamente una coesistenza di grande qualità. Quindi il problema è effettivamente che forse le dichiarazioni decontestualizzate del Cardinale Martino possono essere scioccanti. Io ho letto tutta l'intervista e mi sembra che Sua Eminenza abbia espresso comunque una posizione di grande chiarezza come autorità religiosa per la pace tra i due popoli. La questione che però vorrei dire è che ho l'impressione che però in effetti di chi è la colpa, se vogliamo, se non proprio di una leadership palestinese che da un lato strumentalizza la religione per delle finalità di potere senza saper gestire gli autentici interessi del proprio popolo, o dall'altro lato abbiamo sempre all'interno dei palestinesi un partito corrotto che non ha neanche lui nessun potere riconosciuto da parte del proprio popolo. È vero che lei è in partenza o andrà o cercherà di portare aiuti umanitari nella striscia di Gaza, che vogliamo chiarire, insomma, è una striscia chiusa per il momento sicuramente ai giornalisti. Ora abbiamo visto che dopo il corridoio umanitario anche l'ONU si è ritirata da questi aiuti umanitari. Io faccio parte di un comitato internazionale che è stato poi sancito all'UNESCO l'anno scorso, di imam e rabbini per la pace, di imam di Israele e del resto del mondo e rabbini di Israele e del resto del mondo, che si trovano fraternamente insieme su dei valori spirituali e che da uomini di fede però hanno anche l'interesse a cooperare in tutte le regioni del mondo per portare questa voce di vera pace rispetto ai pacifisti che sono piuttosto degli strumentalizzatori della pace o ai guerrafondai. E abbiamo fatto l'altro ieri una dichiarazione dove stiamo organizzando un incontro ad Amman, dal dove dovrebbe partire proprio un convoglio di aiuti e medicinali che sia però basato e di comune accordo tra le varie autorità sia palestinesi che israeliane, ma la cosa è promossa proprio da questo comitato internazionale di imam e rabbini per la pace. 800 24 00 24, sentiamo il primo ascoltatore, Davide da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, guardi, io volevo puntualizzare due cose. Innanzitutto, mia madre è siriana, io ho avuto la fortuna di conoscere il mondo arabo da tanti anni, adesso ho 42 anni, e volevo sottolineare una cosa che mi ha colpito molto. Io questo autunno sono rientrato a Damasco, ho fatto un giro in tutta la Siria, paese laico, quindi ufficialmente non religioso, e ho notato delle profondissime differenze rispetto alla fine degli anni 80, che è stato il periodo in cui ero andato precedentemente. Alla fine degli anni 80 la Siria era praticamente un paese occidentale, le donne andavano per strada senza velo, era molto moderno. Oggi sono entrato in un paese che non riconoscevo più. La presenza sunnita è fortissima, c'è una presenza sciita che modera un po' la situazione, ma il fondamentalismo islamico sta prendendo sempre più potere, sempre più piede. E questo secondo lei avviene anche, per esempio, nella striscia di Gaza, per riportare molto concretamente, insomma, sul tema più in questione? Io le dico una cosa, ed era poi il secondo punto. Forse nel mondo occidentale, l'Italia, gli Stati Uniti, io riprendo una frase che ha detto David Grossman nella presentazione del suo ultimo libro, ogni qualvolta i nostri governanti rientrano dagli Stati Uniti e dicono abbiamo il pieno sostegno dell'amministrazione americana e europea, mi rendo conto che la pace si allontana sempre di più. Cioè, forse il mondo occidentale dovrebbe imparare a giudicare le azioni dello Stato israeliano come azioni di uno Stato sovrano, indipendente, scindendolo da quelli che sono i problemi religiosi. E la stessa cosa dovrebbe fare anche la comunità ebraica italiana. Ma per carità, si vuole sperare che sia sempre così, anche se questa purtroppo, e su questo vorrei il conforto o la smentita di Sergio Minerbi, dice l'ascoltatore Davide da Vicenza un aspetto molto interessante, spesso non si distingue bene e da ambo i lati le accuse o gli appoggi allo Stato, ai governi di Israele, e si confondono con quello che invece è delle accuse che cadono l'aspetto religioso, che vanno e rischiano di sfociare nell'antisemitismo. Perché Minerbi c'è ancora questa confusione molto presente? La confusione deriva da quello che alcuni hanno definito lo stato di dimmitudine. I dimmi erano gli ebrei e i cristiani nei paesi musulmani, che erano tollerati e che erano protetti a condizione naturalmente di non disturbare. Questa condizione di dimmitudine è stata adesso assorbita dall'Europa e quindi siamo in una situazione molto problematica. Io metterei la firma a quello che ha detto l'imam Pallavicini, anzi spero che le sue idee si propaghino, ma purtroppo non sono quelle del Hamas. Il Hamas è un'organizzazione al bando sia in Egitto sia in Giordania, quindi siamo in una situazione assolutamente assurda. Il Hamas stamattina ci ha spedito 6 missili, dei quali 2 a Beersheba, dove io ho una figlia medico, e quindi tutte queste illazioni sono assolutamente inutili. Minerbi, però l'accusa, voglio dire, e qui bisogna sempre stare attenti con i termini, poi devo andare un attimo in pubblicità, l'accusa sulla disproporzione, voglio dire, gli 8 anni di razzi sono testimoniati, sono sulle cronache, e molti dicono Israele a questo punto sta reagendo e ha reagito dopo 8 anni di attacchi continui, insomma, come dire, dopo 8 anni, come ci diceva l'altro giorno il tenente colonnello Jacobi dell'esercito israeliano, enough is enough, come si dice in inglese, insomma, la pazienza è finita, ora quando è troppo è troppo, però sta reagendo con una durezza molto molto evidente anche questa. Scusi, nei numeri. Ma mi permetta un attimo, Israele sta reagendo contro una massa di terroristi che si nasconde nei bunker, che ha minato ogni casa, che non gliene importa niente della popolazione civile palestinese, che la manda allo sbaraglio per farsene uno scudo. Quindi tutte queste cose vanno capite prima di esprimere un giudizio positivo o negativo. Andrea da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Grazie per avermi dato questa possibilità. Io volevo provare a ritornare al cuore del problema, secondo me, che è l'occupazione militare della West Bank da parte di Israele da 40 anni. West Bank, diciamo, per chi non è... La Cisgiordania, insomma, la Cisgiordania. Per chi non è molto addetto. Dal 1967, dopo la guerra dei 6 giorni, Israele occupa militarmente quello che dovrebbe diventare, in teoria, il futuro Stato palestinese. Se non si parte sempre da questo dato di fatto inconfutabile, è praticamente impossibile venire a capo delle ragioni per dire che cosa, però, Andrea, che questo legittima Hamas a tirare dei razzi sulla no, non legittima Hamas sicuramente, però a tirare questo dei razzi, purtroppo per 8 anni questo è stato. Però bisogna tener conto che Gaza non è un luogo pacificato. Cioè, da quando anche Israele si è ritirato dalla striscia, non possiamo parlare della striscia di Gaza come di un luogo dove vige una sorta di normalità. Gaza è una sorta di enorme quartiere lungo 30 chilometri e largo 5, dove la gente non ha libertà di movimento, non hanno speranze, non possono uscire dalla striscia per andare a lavorare. Cioè, voi non potete porla come se fosse un luogo dove la gente sceglie deliberatamente di sparare i razzi su Israele. Non c'è pace lì, non c'è mai stata. Va bene, Andrea, grazie per questo suo intervento. Padre Samir, lei legge in quello che ci ha detto Andrea da Treviso una sorta anche di legittimazione di quello che lei ci ha detto prima? No, non ho mai legittimato. No, padre Samir, non una legittimazione dei razzi, dicevo legittimazione di quello che lei ha detto prima sull'occupazione della Cisgiordania, allora, non della legittimazione dei razzi. Da 41 anni Israele occupa militarmente un altro paese. Prima aveva occupato anche per 20 anni il Libano, ha occupato l'Egitto, tutto il Sinai, ha occupato tutti i vicini. E quello sembra normale. E allora dico, occupare un paese significa non riconoscerlo nelle sue frontiere internazionali. Dunque Israele, a conoscenza mia, non ha mai riconosciuto questi paesi finché ci sia stato con l'Egitto e la Giordania un accordo. I tre altri paesi non li ha riconosciuti, come loro non riconoscono Israele. Questo è sbagliato dalle due parti. Hamas, l'ho dichiarato, lo ripeto, è un movimento terrorista e lo condanno. Il fatto dell'occupazione può spiegare il terrorismo, non lo può giustificare né legittimare. La reazione, come è stato detto, di Israele è del tutto sproporzionata e dunque è irragionevole. Mi diranno che la guerra è questione di passione, ma proprio di questo vogliamo uscire. Magari tornassimo 3.000 anni fa alla legge del talion, occhio per occhio, lì occhio per 100 o 1.000 occhio. Allora, tutto questo ha reso, come l'ha detto Andrea, la gente non ha più speranza a Gaza e in genere nella Cisgiordania, e sono pronti, la vita non conta più per loro perché non vivono. E questo attacco e queste reazioni, come parallelamente in Iraq, non può fare che aumentare il terrorismo, perché l'odio aumenta, ed è questo che diceva il Papa questi giorni, cioè si deve combattere la fonte di tutto, che è l'odio per l'altro. Bene, allora la soluzione esiste, ed è di dire, dobbiamo a tutti i costi fare una pace nella legittimità internazionale. Fuori di questo ci sarà terrorismo sia di Stato sia di gruppi. E le due esistono e capiamo bene che cosa succede. Terrorismo di Stato, anche questa insomma è un'accusa forte. Israele fa un terrorismo di Stato, cioè organizza, dice per uno ne uccido 100, o dice io ho interesse, approfitto che un dei capi incoscienti, che sono i capi, come l'ha detto molto bene Yahya Pallavicini, ha descritto la situazione politica della Palestina, abbiamo Hamas è incosciente, e approfitta di questo per dire è l'occasione per ammazzare, nella speranza di sradicare. Allora, io però su questo, siccome voglio passare alla questione della preghiera islamica con Pallavicini, però insomma quello che lei ha detto, Minerbi, le devo chiedere una replica concisa però, se possibile, sulla questione terrorismo di Stato. Molto concisa, mi dispiace che padre Samir di oggi non è padre Samir di ieri, questo è complica la situazione, ma in ogni caso la striscia di Gaza è stata completamente evacuata da Israele. La striscia di Gaza era in mano all'OLP. La striscia di Gaza è stata occupata militarmente dal Hamas, il quale ha ucciso almeno 150 palestinesi per arrivare al potere. Il Hamas è un'organizzazione terroristica. Però Minerbi, il Hamas deve essere sradicato. Mi scusi, c'è anche da aggiungere che la striscia di Gaza è appunto un luogo dal quale non è che uno prende un aereo e viene in Italia, non è che entra, esce, c'è libertà, va a lavorare fuori. Cioè... Chiedo scusa, non è esatto. Fino al regime del Hamas si poteva circolare liberamente. All'interno? Non solo all'interno. Contrariamente a quanto ha detto il gentile ascoltatore prima, non solo all'interno, ma anche i valichi erano aperti. C'era un accordo con la Comunità Europea per il controllo del valico di Rafiah. C'erano i valichi aperti tra Israele, che continua a fornire carburante allo Stato del Hamas. Allora, ci sono tanti ascoltatori, io però vorrei prima andare da Jacopo Pallavicini. Oggi su Il Giornale, intervista al senatore Marcello Pera, gli islamici in Duomo, è inquietante. Guardare quelle immagini, quelle fotografie mi ha dato una sensazione amara di presagio, dice Pera. Ho immaginato il Duomo vuoto di cattolici, mentre la piazza era piena di islamici che pregavano. Mi sono messo un po' paura pensando che questo potrebbe essere il destino dell'Europa. Ancora, quelle immagini di per sé normali assumono un valore simbolico così forte che inquieta. E un'altra intervista che sottoporrei, Abdelhamid Shaari, su Repubblica, l'imam di Viale Jenner. Non ero a Milano quella sera, ma sento il dovere di definire quella preghiera inopportuna. Bisognava prevedere le reazioni che ha suscitato. Per questo ci recheremo a chiedere scusa al cardinale Tettamanzi. Temo che il nostro imam Abu Imad, che è quello che ha condotto la preghiera musulmana, sia caduto in una trappola, accettando in buona fede la richiesta giunta lì per lì di guidare quella preghiera serale pubblica da lui non prevista. Pallavicini, che ne pensa di quella preghiera? La inquieta oppure dobbiamo vedere a quella preghiera senza l'inquietudine del senatore Pera? Ma io credo che, adesso non so quali siano l'approccio del senatore Pera, che conosco e stimo per la sua visione e partecipazione seria al pluralismo e al rapporto tra laicità dello Stato e religioni. Io ti posso dire che da musulmano e da italiano ho l'impressione che si sta aggiungendo vergogna su vergogna, perché c'è la prima vergogna, che è la strumentalizzazione della preghiera in un luogo che non è adibito e in una manifestazione che non era autorizzata, dove adesso non soltanto utilizziamo la religione, ma utilizziamo in maniera irregolare o irrituale il rito della preghiera per creare un'ostentazione scenografica che fa un uso della religione che è proprio una piazzata, ecco, nel senso più volgare del termine. La cosa peggiore ancora, che mi inquieta ancora di più, è che l'arcivescovo Tettamanzi rischi per una ingenuità di sottoporsi alla legittimazione, adesso con l'atteggiamento del vittimismo del gestore dei due centri islamici che hanno promosso questa manifestazione coordinata da Lukoi, di prestarsi ad una legittimazione di questi simpatizzanti di Hamas in Italia, e quindi avremo la nuova confusione, che verrà dimenticato che questi manifestanti hanno strumentalizzato la religione, hanno attaccato l'ordine pubblico e hanno fatto questa piazzata imbarazzante, che è per me una vergogna in termini proprio dell'approccio religioso, o piuttosto antireligioso, che hanno nei confronti della nostra religione e civiltà. Ma perché lei dice che il cardinal Tettamanzi rischia di sottoporsi, cioè con le eventuali scuse, con un eventuale incontro che immagino ci sarà, almeno annunciato a giorni? Perché quello che nella strategia di propaganda dei simpatizzanti dei Fratelli Musulmani in tutto il mondo hanno sempre cercato di fare, da un lato l'arroganza e dall'altro lato il vittimismo, perché a loro o interessa occupare i posti di potere per avere la loro rivendicazione di autorità temporale basata su un islamismo tutto ideologico e utopistico e formalista, oppure vogliono con strumentalizzare la democrazia o il pietismo, il vittimismo o il buonismo delle persone che ingenuamente si prestano comunque a dialogare e a scendere a dei compromessi che poi alla fine andranno a legittimare questi interlocutori come interlocutori magari convertiti alla bontà della vera religione che quindi come rappresentanti sì. Dell'Islam, cosa allora, che non sono. Ci sono tanti ascoltatori, siccome sono più sul fronte, ovviamente quello che sta succedendo, la cronaca e la guerra, state con noi, Daniele, Jamal, gli ascoltatori tra poco sono da voi dopo il traffico. Prima però vorrei da padre Samir un parere su quello che è la preghiera musulmana che è stata fatta sul sagrato di Piazza del Duomo, così come a Bologna, ecco le scuse, c'è chi dice come il senatore Pera l'inquietudine. Lei che è un influente islamologo ascoltato in Vaticano, la Chiesa dovrebbe essere inquietata da questa preghiera? Sono espresso su anche sull'avvenire, sì. Oggi dovrebbe uscire o è uscito, esattamente come l'ha detto Yahya Pallavicini, non si può usare la religione per motivi, la preghiera soprattutto per motivi politici né per ostentazione eccetera. Su tutto questo siamo d'accordo ed era un errore eccedere o incoraggiare quest'uso, quest'abuso delle cose sacre per un motivo politico è inaccettabile e dobbiamo essere attenti. Ma vorrei dire una cosa sul fondo del problema che discutiamo. Vorrei dire quanto sono d'accordo con l'ambasciatore su alcuni punti. Uno, e l'ho detto e lo ripeto, il Hamas è un movimento terrorista che dobbiamo combattere per liberare la Palestina. Due, lo Stato di Israele, c'è l'obbligo di tutti di riconoscere lo Stato di Israele come stabilito dall'ONU. Tre, c'è l'obbligo di tutti di riconoscere lo Stato a nascere della Palestina come è stato stabilito dall'ONU. Quattro, di riconoscere tutte le decisioni dell'ONU riguardo a Israele e Palestina. Infine, la pace è possibile, è fattibile, se lo vogliamo potrebbe, non è complicato, la proposta franco-egiziana è un piccolo passo per arrivare a questo, ma si suppone che ognuno rinunci dalle due parti a alcuni sogni, sia Hamas, Hezbollah e altri, di rinunciare al sogno della Palestina di una volta, di prima del 48, perché intanto c'è una nuova situazione. D'altra parte, per i sionisti che sognano di una grande Israele, di rinunciare per accettare l'Israele decisa dall'ONU come è stata decisa. E dalle risoluzioni. E le risoluzioni da ambo le parti. Il problema di Gerusalemme, il problema dell'acqua, il problema delle colonie, degli insediamenti, il problema del ritorno o compenso dei rifugiati, sono grossi problemi, ma anche questi possono essere tutti risolti se c'è la buona volontà con un po' di tempo, ma non d'un colpo. Gli ascoltatori, Anna da Roma, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Benissimo. Allora senta, io sono stata in Israele e anche, sono stata anche in un kibbutz. E per me è aberrante che noi pensiamo che sia una sproporzione, perché noi facciamo la conta dei morti. Allora, mentre in tutti i kibbutz, in tutte le città, Israele, per esempio in un kibbutz, hanno un luogo dove vanno a mettere i bambini quando c'è un odore di guerra. E sono luoghi fortificati contro le bombe, con i vetri antiproiettili e le finestre, perché durante gli attacchi palestinesi sparavano prima i bambini e poi i soldati. Gli altri dall'altra parte fanno il contrario, se ne fanno scudo. E quindi che cosa deve fare Israele? Deve fare scudo anche lei dei propri figli, perché poi l'Occidente dica adesso i morti sono pari e quindi diciamo che c'è ragione dall'una e dall'altra parte. Io trovo questo aberrante. Grazie Anna per il suo intervento. Vado a Vercelli da Jamal, buongiorno. Ecco, buongiorno, mi sente? Benissimo, però deve spegnere la radio che c'è una fastidiosa eco. Ok, perfetto. Ecco, dica. No, io vorrei dire una cosa che la trovo un po' strana. Il fatto di parlare tanto di Hamas come movimento islamico, integralisti, quello, quell'altro, sempre sull'Islam, l'Islam, ma non proviamo un momento a separare le cose? Come se noi diamo ai partigiani italiani nei momenti di guerra uno stampo di integralisti cattolici. Se l'occupante dell'Italia in quel momento diceva che i partigiani sono integralisti cattolici, sarebbe una cosa estremamente fuori Io capisco, no, il senso del suo intervento, certo. Però Jamal, mi scusi, sia Minerbi che Samir, padre Samir, che anche Pallavicini, insomma, sia sullo, quello che ha scritto sullo statuto di Hamas nel considerarlo un'organizzazione terroristica. Insomma, non è che è una cosa che ci siamo inventati noi, no, Jamal? Qui bisogna solo dire due punti veloci. Hamas è stata creata proprio ultimamente, ma il problema non è Hamas o attacchiamoci ai razzi di Hamas e quello che... Arriviamo a una pressione di Gaza durante tutto questo periodo, che una pressione soffocante per un popolo, 1,5 milioni di persone in 300 chilometri quadrati, senza acqua, una volta al giorno, senza terra, le hanno tolto proprio il minimo bisogno per vivere. Come fanno questa gente qua, 1,5 milioni persone, in questa fascia di terra a vivere con questa pressione, con un embargo aereo, via terra, aereo e via mare, non si possono entrare in nessuna cosa in questo. Allora la gente lì, se si ribella sono terroristi, se non si ribella devono accettare una tregua, e le condizioni della tregua sono questi, questa pressione soffocante. L'ultima cosa, sì, che non dimentichiamo che ieri Condoleezza Rice ha dichiarato di voler la liberazione di un prigioniero israeliano, che questo Shalit qua, che sarebbe il soldato Gilad Shalit, devono liberarlo, va benissimo, devono liberarlo, però non dimentichiamo che ci sono 11.000 palestinesi nei prigioni di Israele. Va bene, grazie. Grazie Jamal, ha detto compiutamente il suo pensiero. Vado velocemente da Daniele da Roma, se però può essere anche lei molto breve perché il tempo vola. Daniele. D'accordissimo, buongiorno. Dica, buongiorno. Allora, io volevo fare questa premessa. Premesso che in questa guerra la vera vittima è la popolazione civile, israeliana o palestinese che sia. Io mi faccio un interrogativo a cui non ho una risposta. Come mai in altri paesi del Medio Oriente, come Iraq o Afghanistan, l'Occidente è intervenuto subito e pesantemente, mentre questa guerra orribile va avanti da 60 anni? Anche di più, se vuole, le schermaglie. Comunque grazie. Sergio Minerbi, abbiamo raccolto un po' di testimonianze diverse, di diverso stampo da parte degli ascoltatori. Vuole replicare? Io però voglio tornare un po' sulla questione della striscia di Gaza. Le dice, i valichi erano aperti, si poteva entrare, si poteva uscire, tutto controllato ovviamente da anche dallo Stato di Israele, essendo la frontiera, voglio dire, entrare vuol dire entrare nello Stato di Israele, quindi per ovvie questioni di sicurezza. Però non si può dire, insomma, che vivere nella striscia di Gaza sia come vivere a Milano, dove uno fa quello che vuole, dove esce, allora, dove ripeto, va. Chiedo scusa, ripeto, da 2 anni a questa parte il Hamas ha conquistato militarmente la striscia di Gaza, e questo lo sappiamo, trappandola, sì, all'Olf. Questo numero uno. Numero due, il Hamas ha nel suo statuto l'articolo 11, nel quale dice che la Palestina è una terra del Waqf, e quindi è consacrata per le generazioni musulmane fino al giorno del giudizio. Come si fa a ragionare con questa gente? È impossibile. Per di più, al confine nord di Israele, ieri sono caduti alcuni missili a Naharia lanciati dal Libano, quindi il Libano non è capace di rispettare la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite per mantenere la calma sul proprio territorio. Non è capace di fare la polizia sul proprio territorio. Per quanto ha detto padre Samir, certamente sono d'accordo che il Hamas è un'organizzazione terroristica, che c'è l'obbligo di riconoscere, eccetera, eccetera, tutto benissimo. Però se si parla, per esempio, del problema dei rifugiati, da 60 anni il problema dei rifugiati si eternizza perché gli stati arabi hanno proibito di fare il resettlement, vale a dire di reinstallare i rifugiati laddove sono, laddove si trovano, e prima di tutto nel Libano. Quindi questo problema si eternizza, mentre tutti gli altri problemi di rifugiati al mondo non esistono più. Questo problema sul quale vorrei tornare da padre Samir in conclusione. Padre Samir, oggi mi riallaccio a quello che ha detto poco fa Sergio Minerbi e le faccio questa domanda. Oggi sul Corriere della Sera Antonio Ferrari in prima pagina l'editoriale dice: il vero silenzio imbarazzante fino a questo momento è quello proprio dei palestinesi della Cisgiordania. E le chiedo su quello che sta succedendo a Gaza, e le chiedo anche, oltre a questo silenzio, non so se lei lo coglie, un po' imbarazzante, perché l'Egitto sul fronte sud della striscia di Gaza non, in nome anche di una fratellanza araba, non fa qualcosa in più nei confronti dei palestinesi, se secondo lei dovrebbe farlo oppure no? Nel caso dell'Egitto non si tratta dei palestinesi, si tratta di Hamas. E l'Egitto ha fatto la scelta opposta, cioè della pace con Israele e del riconoscimento dell'altro ed essere riconosciuto. Voglio dire qualcosa per la popolazione civile, per le vittime. Ha voluto farlo, e Hamas, che ha vietato alla propria popolazione di usare questo passaggio aperto dall'Egitto per motivi umanitari. Io stavo a Beirut quando c'è stata domenica la manifestazione contro l'Egitto. L'unica manifestazione era all'ambasciata d'Egitto organizzata da Hezbollah. Il problema che abbiamo, e l'ha sollevato l'ambasciatore, è abbiamo due movimenti che in nome, purtroppo, e sono d'accordo con Sergio Pallavicini su questo, purtroppo pretendono fare atti di violenza eccetera in nome dell'Islam, e giocano su questa sensibilità religiosa che c'è da noi dappertutto. Allora il Libano non riesce a controllare, e sappiamo perché, perché è uno Stato dentro lo Stato, e appena si cerca di controllare questo Stato è la rivoluzione interna. Si chiedeva anche perché non si fa niente per i rifugiati, sì. Ma perché tutta la struttura sociopolitica religiosa del Libano è un calcolo di farmacista tra le varie comunità. Integrare i palestinesi distruggerebbe tutto il sistema, e saranno i primi i sciiti a rifiutarlo. Cioè abbiamo problemi interni, come la Giordania è intervenuta in modo violentissimo nel Settembre Nero, sì, per gli stessi motivi, cioè per assicurare la pace interna. È difficile un intervento di questo tipo. Io, padre Samir, però su questo la devo fermare, così come devo fermare Sergio Minerbi, Sergio Iacca Pallavicini, che ringrazio ovviamente per essere intervenuti. Viva voce tra radio24.it è la nostra mail. Grazie a Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi in redazione e Fabio Cantadori in regia. Ci ritroviamo lunedì mattina.